Parlare di peccato disturba. A nessuno piace affrontare un argomento verso il quale alla fine si è costretti a riflettere seriamente e doversi mettere in discussione. Già la parola peccato evoca nella nostra mente pensieri e atteggiamenti che non vorremmo ricordare. Se poi a parlare di peccato ci si sente in colpa, la reazione più consona è quella di cambiare argomento. Ma poiché il peccato è una realtà certa più della realtà stessa, poiché è una realtà con la quale ci scontriamo tutti i giorni, la cosa più saggia è conoscere come si manifesta il peccato per non portare le conseguenze dei nostri errori. Quando si parla di peccato si pensa immediatamente all'omicidio, al furto, all'adulterio, alla menzogna, cioè a quelle manifestazioni più evidenti, ma vi sono altre sue forme meno solari che è importante conoscere. In questo breve scritto tratteremo 7 aspetti del peccato che sfuggono spesso alla nostra attenzione, e cioè 1. Il non credere in Cristo, 2. Il non credere che il peccato è una violazione della legge, 3. L'affermare di non aver peccato, 4. L'avere riguardi personali, 5. Il non fare il bene, 6. Il comportamento senza fede, 7. Il bestemmiare contro la persona dello Spirito Santo. Iniziamo considerando il peccato come mancanza di fede in Cristo. Gesù disse: tuttavia io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore. Ma se me ne vado, io ve lo manderò. E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Di peccato, perché non credono in me. Giovanni 16, 7 a 9. È opinione comune che gli uomini debbano credere in Dio. Non solo. Molti predicatori del Vangelo invitano gli uomini a porre fede in Dio, quasi che credere in Dio fosse un atto virtuoso e onorevole. Ma dimenticano questi predicatori che anche i demoni credono in Dio, con la differenza che mentre i demoni davanti a lui tremano, gli uomini si beffano del loro creatore. Giacomo 2,19. Tutta la scrittura ordina all'uomo di porre fede in Cristo, e la mancanza di questa fede è il peccato per eccellenza. Vi è pure confusione in merito a cosa significa avere fede in Cristo. Per la maggioranza delle persone, credere in Cristo significa sapere che esiste, che è morto e risorto, ma la loro vita è vissuta secondo ciò che ritengono giusto o sbagliato ai loro occhi. Invece, credere in Cristo significa adeguare il proprio modo di pensare e di agire secondo ciò che Gesù ha detto. Chi non conforma la sua vita alla volontà di Cristo, ben espressa nella Bibbia, la sua parola scritta per ognuno di noi, è colpevole di peccato per quanto possa anche non averne convinzione. Un altro aspetto poco considerato è che il peccato non consiste nel trasgredire un'opinione, ma la legge di Dio, dove per legge non si intendono esclusivamente i 10 comandamenti, ma bensì la totalità delle norme contenute nella sua parola. L'Apostolo Giovanni lo dice espressamente. Chiunque commette il peccato commette pure una violazione della legge, e il peccato è violazione della legge. 1 Giovanni 3,4. Bisogna prestare attenzione a ciò che sta scritto nel libro di Dio, perché così facendo si evitano tanti errori, mettendone alla luce altrettanti. Come per non violare il codice stradale non è sufficiente essere in buona fede o seguire gli altri, perché la legge del codice stradale non ha riguardi personali. Così è della legge di Dio. Vi sono milioni di persone che in buona fede si rivolgono in preghiera a Maria e ai santi, che vanno dal sacerdote a confessare i loro peccati, che si inginocchiano o si fanno il segno della croce davanti a delle statue, senza sapere che questo è un peccato davanti a Dio. Il peccato è violare la legge di Dio. E quando Dio ha stabilito che una cosa non si deve fare, questa non è da farsi indiscutibilmente. Facendola, si commette un peccato, a prescindere dalla propria sincera convinzione di non compierlo. È peccato pure quando ci si ritiene giusti nei confronti di Dio, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. 1 Giovanni 1, 8-10. Può sembrare strano, ma vi sono persone che sostengono di non essere peccatori o mancanti davanti a Dio. Non lo dicono certamente ai 4:20 perché non sarebbero sagge né accorte, ma la testimonianza della loro convinzione di essere senza peccato si rende manifesta quando ascoltano il messaggio del Vangelo. Quando queste persone si rendono conto che per entrare nel regno di Dio occorre una aperta e pubblica confessione di peccato, ecco che compare una reazione che li porta a irrigidirsi e a difendere la loro giustizia a spada tratta. Eppure è lapalissiano che se Gesù è morto in croce per tutti gli uomini perché sono peccatori e perduti, è evidente che tutti sono mancanti e colpevoli davanti a Dio. Compresa Maria, la madre di Gesù, che il cattolicesimo ha dichiarata Immacolata Concezione. Non vi è dottrina più assurda accettata ciecamente dai cattolici, pari all'opinione assurda dell'induismo che le mucche siano sacre. Una convinzione sbagliata non rende vera una bugia. Così, chi si ritiene non colpevole davanti a Dio, chi pensa di non essere degno della condanna eterna, ritiene che Cristo abbia dichiarato il falso, chi detiene tale opinione pecca, anche se è convinto del contrario. Un altro aspetto del peccato poco conosciuto e pochissimo evidente è l'agire senza fede in Dio. Questo aspetto lo troviamo in un discorso dell'Apostolo Paolo in merito al rapporto fraterno. Perseguiamo dunque le cose che contribuiscono alla pace e alla edificazione. Non distruggere l'opera di Dio per il cibo. Certo, tutte le cose sono pure, ma è sbagliato quando uno mangia qualcosa che è occasione di peccato. È bene non mangiare carne, né bere vino, né fare cosa alcuna che porti tuo fratello a inciampare o ad essere scandalizzato o essere indebolito. Hai tu fede? Tienila per te stesso davanti a Dio. Beato chi non condanna se stesso in ciò che approva. Ma colui che sta in dubbio, se mangia è condannato, perché non mangia con fede. Or tutto ciò che non viene da fede è peccato. Romani 14:19-23. Dobbiamo ammettere che non sempre siamo convinti della correttezza di ciò che facciamo. E questo è normale. Nessuno di noi può avere la conoscenza di tutto, e per forza di cose spesso si è incerti se prendere una decisione o un'altra. Specialmente nella vita cristiana, dove ogni cosa, almeno all'inizio, è totalmente nuova. Vedo il mio prossimo commettere un errore, devo dirglielo oppure no? Vedo la necessità di riposarmi. Quando devo farlo? Dove? Come? La vita è piena di interrogativi, e ad essi non possiamo dare sempre una risposta. Così, anche se non ho una forte convinzione in merito alla mia scelta, posso sempre avere la fede di credere che qualsiasi scelta che faccia sia nella volontà di Dio. L'importante nella vita non è sbagliare, ma non dubitare che le mie scelte sfuggano alla conoscenza di Dio. Se Dio vuole, può impedirmi di compiere una scelta sbagliata. Se invece è nella sua volontà che io sbagli, prendo l'errore e le sue conseguenze come parte dei piani di Dio. Negli Evangeli abbiamo il discepolo Pietro, che ha commesso errori di comportamento e di pensiero, mentre nell'Antico Testamento incontriamo la narrazione di alcuni episodi veramente incresciosi riguardanti uomini di Dio. Eppure, questi errori sono serviti per glorificare Dio. Quando il popolo di Israele commise il peccato di chiedere un re, il peccato rimase peccato, ma il popolo di Israele non avrebbe mai pensato che in futuro avrebbero avuto il re dei re, e cioè Gesù Cristo. Più che disperarsi del peccato, cosa questa che tra l'altro è una forma di orgoglio, i figli di Dio si devono preoccupare di agire sempre con fiducia nella sovranità di Dio. Senza questa fede si è colpevoli di peccato, pur essendone contrariamente convinti. Un'altra forma, difficile da individuare, è quando si pecca non compiendo il bene. Giacomo, il fratellastro di Gesù, lo dice nella sua lettera. Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Giacomo 4:17. Compiere il bene e di conseguenza fare del bene non è cosa di tutti. Se fosse così, il mondo sarebbe meno aggravato di ingiustizie. Giacomo ritiene colpevole chi è a conoscenza di cosa significhi fare del bene e non lo fa. Nella pratica della nostra vita quotidiana, significa che quando vediamo il nostro prossimo nella necessità e siamo in grado di provvedere, noi siamo chiamati ad intervenire e la nostra noncuranza è ritenuta da Dio un peccato. Ciò dimostra che Il peccato non si presenta sempre sotto la forma ripugnante, ma a volte è molto piacevole, comodo, invisibile. Si tratta di un peccato che non vi vede, ma che comunque rimane un peccato anche se l'opinione comune è un'altra. Vi è inoltre una forma di peccato veramente unica. Se veramente adempite la legge regale, secondo la scrittura, ama il tuo prossimo come te stesso, fate bene, ma se usate favoritismi personali, commettete peccato e siete condannati dalla legge come trasgressori. Chiunque, infatti, osserva tutta la legge, ma viene meno in un sol punto, è colpevole su tutti i punti, Giacomo 2, 8-10. Per quanto possa avere capito il comandamento di amare il prossimo è il più grande comandamento verso gli uomini, e ho sempre ritenuto, come è scritto, che adempiuto a questo nei confronti del prossimo si fosse adempiuta la legge. Eppure Giacomo sta dicendo che non basta adempiere il comandamento dell'amare, ma occorre anche non avere dei riguardi personali. Anche se uno ama, ma fa differenze di trattamento nei confronti del prossimo, commette un peccato. Questo aspetto del peccato che dà molto da pensare e, preso sul serio, dovrebbe indurre l'intera umanità, che priva di convinzione di peccato prosegue la propria esistenza serena e tranquilla, a battersi invece il petto. Infine, vi è il peccato imperdonabile contro lo Spirito Santo. Così si è espresso l'Evangelista Marco. In verità vi dico che ai figli degli uomini sarà perdonato ogni peccato e qualunque bestemmia essi diranno. Ma chiunque bestemmierà contro lo Spirito Santo non ha perdono in eterno, ma è sottoposto a giudizio eterno. Marco 3, 28-29. I peccati precedenti potrebbero anche essere ignorati, ma il peccato di rifiutare la convinzione di peccato da parte della persona dello Spirito Santo è terribilmente allarmante. È possibile far finta di niente davanti a qualcuno che, in veste di ambasciatore di Dio, ti annuncia che rifiutando l'opera dello Spirito Santo sei eternamente perduto. Ma come abbiamo visto, se il peccato dei peccati è non credere in Cristo, il peccato imperdonabile è rifiutare la convinzione che il non credere in Cristo ci dia di essere condannati per l'eternità. Oltre questo non vi è nulla da aggiungere, anche se ci è chi ha sempre qualcosa da dire. Novembre 2005, Ellero.